Dunque, Mike Boxall sta facendo questo, nel senso che proprio lo sviluppo di questo che si chiama pragina, cioè della intelligenza non concettuale. Quindi le parole se ne vanno, è una comprensione di ciò che ti succede dentro che non passa attraverso appunto, i concetti che, come sappiamo, i concetti prevede la separazione, cioè è già un discorso. Un po' quello di cui parlava anche Krishnamurti nei suoi libri, pensavo a che cosa vi farà cambiare, eccetera. Quando lui parla dell'osservare senza l'osservatore, che è quello che ti porta appunto allo sviluppo dell'intuizione, ti riporta dentro te stesso, ti lascia smollare il Assolutamente. pensiero che è sempre vecchio. Sì. Lui parla di pensiero sempre comunque Sempre vecchio. Cioè, che tu lo proietti in avanti o che tu lo proietti indietro, il pensiero è sempre vecchio. Sì. Sempre. La vecchio. ripetizione. Lui parlava proprio di questa cosa, che adesso è venuta fuori questa parola che non avevo mai sentito, pragina, è questo concetto. E quello che appunto dicevo, i cognitivisti hanno difficoltà, ecco, chi è scienziato occidentale, difficoltà a comprendere perché gli manca il background, perché qui questa cosa se no è chiarissima cosa si sta facendo. Vuol dire ritornare ai sensi, ritornare alla terra, ritornare qui ed ora e aprirsi la porta verso il cielo. Messi insieme al cervello del cuore, proprio, abbiamo proprio una visione a 360 gradi di cosa c'è da fare oggi. Qui aggiunge anche il ruolo della ripetizione. Allora, ripetere le cose non serve a niente se non c'è l'attenzione cosciente. Cioè, per esempio, anche tutto il lavoro sul corpo, per esempio che fa il Feldenkrais, si capisce perché è così potente. Perché c'è un'attenzione cosciente, cioè io divento cosciente esattamente di come sta la spalla, di come muovo la spalla, che poi è quella che fai nella Vipassana, stai da fermo. Nel Feldenkrais lo fai con micromovimenti. Ora, in Aleph abbiamo messo appunto varie tecniche con micromovimenti in cui porti l'attenzione consapevole. Bene, l'attenzione consapevole si è visto che produce risultati evidentissimi nella corteccia motoria purché ci sia coscienza. Questo per esempio vale tutto il mondo dei musicisti, questo. Se tu fai gli esercizi senza coscienza non si producono modifiche del cervello, ci deve essere coscienza, più coscienza c'è, più il cervello cambia. Quindi, non cambia per le azioni il cervello, cambia per le azioni coscienti. Ecco, questo è un altro punto centrale di questo Che è la discorso. strada attraverso cui Erickson è uscito dalla Che è paralisi. quella attraverso cui Erickson è uscito dalla grave. Come vedete, mentre i cognitivisti trovano le loro cose attraverso delle sperimentazioni, si dà nel momento scientifico, il nostro non è quello l'approccio, il nostro è di validazione crociata. Andiamo a cercare delle cose che sono già state fatte infinite volte nel mondo, che ci possono dare le informazioni di cui non c'è bisogno di sperimentazioni scientifiche, ci sono già. Sì, Anche anche perché tutto. ci sono settori dove non è possibile quel tipo di sperimentazione A scientifica, volte non si quindi può devi usare fare. altri strumenti. Esatto. Anche tutto il lavoro di Joe Dispenza è questo, È questo qua. no? Sì. Quindi noi quello, siccome il nostro punto di forza in Aleph è la didattica, noi stiamo che cosa? Cioè, creando un pacchetto didattico che sia talmente potente e controvertibile che toglie le dissonanze cognitive alle persone. Le persone così dire, questo io non posso fidare, ecco, perché è anche giusto dire, le resistenze delle persone sono ampiamente giustificate, in quanto hanno dentro la testa una serie di convinzioni che la nostra cultura gli ha propagandato da quando sono bambini, e cambiare le convinzioni così è mica facile. E quindi. Ma secondo questo modo di pensare, allora potrebbe esserci un nuovo modo o un modo diverso di affrontare le malattie, per esempio. Sicuramente sì. Perché la malattia nasce e viene alimentata dal fatto che tu ti convinci di essere malato e continui. Sì, questo è un aggravante della malattia, poi la malattia nasce da conflitti di solito. C'è un conflitto non risolto, non la biologia, se la psicologia non ce la fa a risolvere il conflitto, dopo poco il conflitto va a finire. Ci pensa la biologia a rimetterla a posto, cioè con i suoi sistemi che sono piuttosto truculenti. Prevede tra i suoi sistemi la morte, le malattie gravi, insomma, la biologia non scherza quando comincia a intervenire. Ecco, la psicologia sui conflitti riesce a reggere fino a un certo punto, quindi abbiamo uno stressometro, fino a un certo livello di stress ce la fa la psicologia, oltre quel livello di stress non ce la fa, e allora interviene la biologia, e qui c'è tutti gli studi di psicobiologia, che poi Rocco ci parlerà, perché lì proprio per esempio gli stress più potenti sono traumi improvvisi di che non ti aspettavi, vissuti in solitudine, che sono veramente di vitale importanza, ecco. Allora, cose di questo tipo possono andare al di là delle capacità della psiche di contenere queste cose. Allora, una psiche che è allenata ad abbassare lo stress grazie alla meditazione allarga di molto il campo in cui può intervenire sui conflitti, infinitamente di più. Quindi questo è un settore che non ha una, diciamo, questa modalità, il campo di applicazione, diciamo che è tutta la sfera della vita umana, dalla nascita alla morte, qualunque mestiere fai, qualunque cosa fai, diciamo che tra virgolette è una panacea, che in Cina è considerata la medicina numero uno, in Occidente è considerata l'ultima medicina, perché una panacea vuol dire che non vale niente, mentre da noi la chirurgia è considerata quasi la regina delle... In realtà in Cina la chirurgia è considerata l'ultima delle medicine, proprio quella che viene rincorre, ma proprio no. Ecco, questo perché è diverso il modo di riflettere, di pensare sulle cose. Per cui si capisce come la filosofia, il modo di pensare in generale di una cultura, influisce sui rimedi che la cultura stessa offre per i sintomi che portano le persone. Ecco, la nostra è una cultura che funziona, è sintomatica, va sempre a lavorare sui sintomi, sia nell'economia, sia nelle finanze, sia nella politica, sia nella medicina, sia nell'educazione. Si va sempre dietro i sintomi e non alle cause. Le cause remote, le cause profonde, perché non c'ha la struttura di pensiero o non pensiero, intelligenza non concettuale che consente di arrivare alle cause profonde, quelle che se lavori su quelle, poi il resto va a posto. Ecco, questo è un po' la sintesi, mi fermo.